Spiegami perché dovrei piangere. Oh Jason, I'm so angry! Nightmare, I'm so crying! Sono la rivincita di quelli come me! Che valgono uno per tre! Ma divisi in due! E dati solo a uno! Siamo noi il premio! Vi prendete tutto, quello che abbiamo costruito, mi hanno portato via anche il lupo che avevo dentro costruito. Una lacrima perfetta in cui perdermi, e tu me l'hai tolta come fosse whisky. Siamo mica pazzi, quelli come noi vi lanciano due razzi. Siamo Cristi risorti bene, spappolati insieme. Siamo il sangue versato da bere. Siamo una goccia di sangue perfetta dai nostri occhi. Ma il nostro sangue imperfetto, manco fossimo orchi. Siamo dei mostri nel nostro DNA, ma nel nostro cuore c'è un santo che chiama il cielo, vuole amore. Peace and love per tutte le genti. I'm a stone, crescete attraverso me. I'm the rock, I'm the rock and roll. L'hip hop e rap sono il nuovo rock. Come dice Sfera, dall'hip hop io passo al rock. Manco fossi Jim Morrison rinato che prende un microfono. E purtroppo troppo tardi per andare su un palco, ma voglio rappare. Jim Morrison mi ha preso la mente e adesso mi assale la voglia di cantarmi una canzone stupenda. Chiedi per favore torna. Cazzo, sono un pazzo, ma ti ho lasciata. Tu mi devi star a castigare col silenzio, come ho fatto, non ce la faccio più. Ho un rimorso grande, più dell'amore che porto per lo stesso Gesù. Dio, se esisti, ho assoluto che sei, vieni, ritorna qua da me, sovrastami e correggimi. Ma rumori di averla persa per sempre, ok. Però una cosa te la dico, ti amo ancora e una parte di me sarà profondamente sempre te. E vivrai in un rammarico che voci dall'alto chiamano. Peggio dell'LSD sono fatto. Sono più fatto dello stesso LSD. Hoffman è un mio amico, bussa alla porta, mi porta tutto ciò che voglio. Io sto a scrivere su un foglio ciò che voglio. In quanto tempo te li devo scrivere? 2 o 3 9 per spiegarti che quelli delle elementari mi possono solo allacciare le scarpe e schiacciare su play e imparare come Mozart canta quando eri nato sotto la stella di Morrison. Morirò per sempre in un cimitero bellissimo. Voi portatemi fiori, miei malumori, rose nere, i sapori e gli odori che ho provato nella vita, li sto dimenticando, il rammarico che ho dentro. T'ho lasciato come ho fatto, scusa, di questo microfono io ora abuso per chiederti un posto nel mio cuore ancora, scusa se ti ho chiamato puttana. Peace and love per tutte le genti. I'm a stone, crescete attraverso me. I'm the rock.